la classifica dei 20 dischi più trasmessi della settimana su CRM Happy Radio. Ciao bella gente, eccoci nuovamente qua in diretta su CRM Happy Radio con un'altra puntata di Speedy Top, la classifica dei 20 brani più ascoltati durante l'arco della settimana, che immancabilmente il nostro caro regista Antonio Glorioso scatta l'applauso. Bravo Antonio, senti che applauso ci fa per noi, così noi abbiamo modo di ascoltare tanta bella musica. Ma come fare a mettersi in contatto con noi? Ci potete inviare un messaggio direttamente dal nostro sito www.crmhappyradio.it, oppure ci potete inviare un sms al 335 56 37 251 o telefonando allo 0921 92 32 92, altrimenti su Facebook ci trovate tramite il nostro contatto che è CRM Happy Radio. Ci mandate la richiesta e noi vi rispondiamo immediatamente. Potete chattare alla velocità della luce con il sottoscritto, che vi risponderà in tempo reale, perché sono qua davanti al monitor, di conseguenza ho anche la mia bella tastiera wireless. Caro Antonio, fa freddino, Antonio, ma che dai, è la temperatura che si è abbassata di qualche grado. In fondo qui da noi ci sono soltanto 9 gradi ci sono fuori oggi, 8-9 gradi. Beh, insomma, stiamo meglio rispetto alle popolazioni del nord, che sono sotto lo zero, di conseguenza fa veramente molto freddo. Io ho sentito amici a Milano e anche dai paesi limitrofi, insomma, che sono veramente con meno 10, meno 15 gradi e sono bloccati in casa, perché insomma con queste temperature fuori non c'è niente, non c'è nessuno, e poi non si può nemmeno circolare per le strade perché sono totalmente ghiacciate. Quindi non lamentiamoci noi che siamo qua in terra sicula, dove un clima veramente spettacolare, quasi quasi ad andare in spiaggia. Beh, non esageriamo però, dai, insomma i nostri 10 gradi non sono assolutamente maligni, anzi insomma durante il giorno arriviamo anche a 13-14, quindi non ci possiamo lamentare, no assolutamente, anzi ci dispiace per tutte le persone che purtroppo stanno patendo il freddo in questi giorni, che è veramente allucinante. Bene, come vi stavo dicendo, ci potete anche guardare tramite il nostro sito, perché in streaming ci potete guardare con le nostre webcam e naturalmente ci potete anche ascoltare. Bene, io volevo anche ricordare ai nostri amici che ci seguono che partirà lunedì 20 febbraio 2012 il secondo corso di formazione radiofonica organizzato da CRM Happy Radio con il patrocinio del comune di Cefalù. Il corso avrà una durata di 4 settimane fino al 24 marzo, durante il quale gli aspiranti speaker, fonici e animatori avranno la possibilità di apprendere direttamente sul campo quelle che sono le peculiarità del mondo radiofonico e in particolare il flusso di lavoro e di organizzazione di un'emittente radiofonica. Quindi gli studenti avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con noi, con gli speaker e i redattori di CRM Happy Radio, partecipando attivamente alle trasmissioni, alle registrazioni e all'organizzazione del palinsesto radiofonico. Quindi avremo anche qualche studente, Antonio, avremo magari qualche sera, avremo qui in studio qualche ragazzo che vuole intraprendere questa carriera radiofonica come speaker oppure alla parte tecnica come ci sei te. Mamma mia che intro, cominciamo a tagliar corto, dai, andiamo avanti con la bella musica, andiamo avanti e partiamo immediatamente con la nostra bella classifica, poi continueremo a parlare più tardi. Bene, passiamo subito alla numero 20, dove troviamo una new entry, la fantastica Madonna con Give Me All Your Loving. Maybe you do fine as long as you don't lie to me and let me blow a noise. I'm Roman, I'm a barbarian, I'm Conan. You were sleeping on me, you were dozing. Now move, I'm Conan. E questa era la numero 20 della nostra classifica, la bellissima Madonna, Give Me All Your Loving, fantastico pezzo, una new entry della nostra classifica, e comunque è da poco che incomincia a girare in radio questo brano ed è veramente fantastico. Madonna non si smentisce mai, realizza sempre dei pezzi in collaborazione con grandi artisti, veramente fantastici. Antonio, il nostro regista glorioso, grandissimo, che ogni settimana ci prepara la regia. Caro Antonio, vedo che ti sei messo il giubbotto. No, è vero, perché dovete sapere che in regia non c'è il climatizzatore, invece dove sono io c'è il climatizzatore. E io ho messo il climatizzatore a 22 gradi. Infatti vedo Antonio che si è vestito e si è messo il giubbotto e sta lì a battere i denti. Caro Antonio, dai, adesso mandiamo un attimino un po' di consigli per gli acquisti e vieni qua a riscaldarti. Io do la linea alla regia, torno da voi tra pochissimo. Ciao, bella. Sole sono sicura che non mi ritroverai. Tornerai. Ogni tanto sono stanca di riascoltarmi mentre piango la mia infelicità. Tornerai. Ogni tanto guardo indietro e scopro come il meglio di questi anni sia passato di già. Tornerai. Ogni tanto tremo di paura, ma poi nei tuoi occhi sento quello che sei. Ogni tanto cado e non ci sei. Non sai che ogni tanto cado e non ci sei. Ora ti voglio più che mai. Ora ti voglio qui per sempre. Se solo tu mi sfiorerai, ci stringeremo eternamente. Ce la faremo se tu vorrai. Non sbaglieremo mai. Insieme si confonde con la felicità. Ti voglio qui più che mai. Per sempre tu mi stringerai. Per sempre mi stringerai. Tempo fa speravo in una storia con te, ed ora è solo un'assurdità. Se non ci pensi tu, eclissi del cuore sarà. Ogni tanto so che non sarai mai quell'uomo che davvero io vorrei. Tornerai. Ogni tanto so che sei quell'unico che sa come trattarmi nonostante i miei guai. Tornerai. Ogni tanto so che nell'intero universo non c'è niente che somigli un po' a te. Tornerai. Ogni tanto so che non c'è niente di meglio e niente che per te non farei. Ogni tanto cado e non ci sei. Che ogni tanto cado e non ci sei. Ora ti voglio più che mai. Ora ti voglio qui per sempre. Se solo tu mi sfiorerai, ci stringeremo eternamente. Ce la faremo se tu vorrai. Non sbaglieremo mai. Insieme questa era la numero 19 della nostra classifica, Neck e Laura con Eclissi del Cuore, bellissima canzone d'amore, fantastico il testo ma anche la musica, poi è ripresa una famosissima canzone inglese che poi Laura non è il nome Laura, è l'apostrofo Aura. Io pensavo che all'inizio, la prima volta che ho sentito questa canzone, pensavo che era Neck insieme alla Pausini, invece non è così, caro Antonio, è Laura, è un'altra persona ed è con l'apostrofo, è l'apostrofo Aura. Bene, saluti di rito, dobbiamo salutare gli amici che ci stanno seguendo da casa: Giulia, Rachele, Sara, Giuseppe, Luciano da Castelbuono, grazie per stare con noi. Ma andiamo avanti con la bella musica e passiamo alla numero 18, dove troviamo Laura Pausini per l'appunto con Bastava. Un sorriso di ritorno per rispondere a un sorriso. bastava uno spazio condiviso, ma nessun altare d'oro. Bastava nella stanza di un albergo d'Europa. Si potrebbe andare avanti a parlare o si gioca, o scambiamoci uno schiaffo di pace. Vince il primo che si arrende, si offende, lo dice. Come ci siamo arrivati a volerci così tanto male, non so. Come ci siamo permessi di dirci che ognuno fa quello che può. Una camminata in centro, in un pomeriggio bianco. Bastava vedere il tuo fastidio, fare conti sopra l'odio. Bastava fare a meno delle buone maniere che confondono e rubano spazio e spessore, e buttarci sotto l'acqua gelata e accettare che davvero è acqua passata. Come ci siamo arrivati a volerci così tanto? Come ci siamo permessi di dirci che ognuno fa quello che può? Come ci siamo ridotti io e te? Come ci siamo permessi di dirci che ognuno fa il meglio per sé? E questa era la numero 18, Laura Pausini con Bastava. Come va Antonio? Ti sei riscaldato un attimino? Ti vedo lì ballare un pochino. Vabbè dai, adesso ti riscaldo io, ti faccio fare un po' di flessioni. Arriva Lana Del Rey, Lolita del Rock. Sembra uscita dalle pagine di un libro di James Earl Ray, ma potrebbe anche essere la protagonista di un film di David Link. Con la conturbante Lana Del Rey, il pop ha trovato la sua nuova Lolita, decisamente noir. Nonostante il suo primo album ufficiale, Born to D, che è uscito il 31 gennaio, questa 25enne dello stato di New York, con una manciata di singoli, è già un fenomeno per la critica, che l'ha eletta rivelazione dell'anno, pensate, e per milioni di persone che l'hanno vista su YouTube. Infatti è vero, è nata da pochissimo questa stella del pop ed è già una star internazionale che ha venduto già milioni di brani, insomma di dischi, perché insomma è all'esordio, ma il suo pezzo va veramente alla stragrande. Bene, andiamo avanti con la bella musica, caro Antonio, che dici? No? Usciamo, ce ne andiamo? No, non usciamo perché fuori fa veramente freddo, meglio stare dentro, almeno io, perché qui ho il climatizzatore. E allora andiamo avanti con la bella musica e adesso vi faccio ballare, vi faccio scatenare un pochettino così vi riscaldate. La numero 17, troviamo loro, i fantastici Maroon 5, Move Like Jagger. You wanted control, so we waited. I put on a show. Maroon 5 era il numero 17 della nostra classifica qua in diretta su CRM Happy Radio con Speedy Top, con Antonio Glorioso alla regia. Tra l'altro devo ricordare, caro Antonio, che a breve ci sarà il carnevale e quindi devo anche ricordare, mi sembra doveroso, per rispetto nei tuoi confronti, ricordare le belle serate che avete organizzato per il 20 e il 21 febbraio in via 25 novembre a Cefalù, nel locale denominato La Caverna. Ci sarà una festa che durerà due giorni, molto bella, con bella musica. Ci sarà anche il sottoscritto, perché io sono stato all'edizione dell'anno scorso, mi ricordo questa festicciola è stata veramente graziosa, quindi mi raccomando, non mancate 20-21 febbraio alla Caverna insieme a Antonio Glorioso. Bene, ancora bella musica qua in diretta e vi faccio ballare anche adesso perché siamo alla numero 16, dove troviamo Tayo Cruz con Hangover. Questa era la numero 16, Tayo Cruz con Hangover insieme a Florida. Bellissimo sto pezzo, mi piace sempre tanto ascoltarlo, mi mette sempre una gran carica. Bene, fuori fa freddo, questo è un dato di fatto, ormai l'Italia è sommersa dalla neve, dal freddo, dai venti gelidi che arrivano dal profondo nord. In Siberia ormai è tutta una lastra di ghiaccio, in Ucraina idem. Insomma ragazzi, è arrivato l'inverno, ma di quelli belli pesanti. E siccome con questo freddo l'unica soluzione è rimanere a casa, al calduccio, magari davanti al camino, per chi non ha il camino, una bella stufa, coperti da un bel plaid davanti al camino, stavo dicendo la televisione, no, dovete ascoltare la radio, quindi spegnete la televisione e accendete la radio. Noi ci vogliamo fare i fatti vostri, mandateci un messaggio, scriveteci su Facebook oppure sul nostro sito internet e fateci sapere cosa state facendo. Io intanto do la linea alla regia per qualche istante e torno da voi tra pochissimo. Sì, grido di più, voglio che tu da lassù mi ascolti e chi se ne frega se gli altri lo sanno, non mi fai più paura, non ho paura, no. La finta high, stack per lo smoke, suffering crack. Stress made me tough and never more with your shots. The trouble I rise above expectations, forget rip. Ain't never been shit when I wanted to get pins. Hustle to be, I'm exactly what my next is. Then I tried to cash in on my dad's death. I wanted to vent, then I said nothing at all. After all, you were never kin to me. Family is something that you've never been to me. In fact, making it harder for me to see my father was the only thing that you ever did faccio for me. Così, grido di più. Voglio che tu lassù mi ascolti. E chi se ne frega se gli altri lo sanno. Non mi fai più paura, no, non ho paura, no. Dear Dad, as a kid I looked up to you. Only thing was I never saw enough for you. The last thing I said to you was I hated you. I loved you and that's too late to say to you. Just didn't know what to do, I had to deal with it. Even now, deep down, I'm still living. To think I used to blame me, I wonder what I did to you to make you hate me. I wasn't even fine, life's a journey. Your mind wasn't an easy ride, you never even got to see me ride. I just wish you would've reached out. I wish you would've been round when I been down. I wish that you could see me now, wherever you are. I really hope you found peace. But know that if I ever have kids unlike you, I'll never let them be without me. Faccio così, grido di più. Voglio che tu da lassù mi ascolti. E chi se ne frega se gli altri, gli altri lo sanno. Listen to everything I have to give to you. In every one of these lines I sing to you. My job's more like public service, my life. Professor Green insieme a Dolce Nera, il numero 15 della nostra classifica. Fantastico questo pezzo. Tra l'altro questo pezzo sarà anche a Sanremo, se non sbaglio, dove ci sarà questa apparizione speciale straordinaria di Professor Green insieme a Dolce Nera, e canteranno appunto questo pezzo. Ma parlando di Sanremo, vi ricordate della Eccleston, Tamara Eccleston, che doveva partecipare al festival, che poi hanno detto che non era stata più accettata perché i suoi erano capricci enormi da star e Sanremo non se la poteva permettere? Non è vero, perché ieri l'ho seguita ad Acchiambretti e ha spiegato la motivazione della sua assenza al Festival di Sanremo, e a quanto pare praticamente è stata tutta una montatura, perché alla fine non si sono messi d'accordo su determinate cose, ma assolutamente sul fatto che era capricciosa e pretendeva un cachet altissimo, perché tra l'altro da quello che lei ha detto in diretta ieri sera non si era mai parlato di alcuna cifra, e comunque non erano mai arrivati alla firma, comunque a parlare del contratto vero e proprio, solo che lei sapeva che le prove erano di un giorno, invece erano di molti più giorni. Bene, vi faccio ballare ancora, perché adesso c'è la numero 14 con la bellissima Rihanna, We Found Love. questa era la numero 14, Rihanna con We Found Love. E proprio di Rihanna la prossima notizia, che debutta al Battleship, debutto armato sul grande schermo per la cantante Rihanna, che in tuta mimetica e anfibi nel colossal Battleship da 200 milioni di dollari, pensate, di Peter Berg, affronta un'invasione di alieni cyborg. La diva pop ha raccontato a Chuck, il mensile diretto da Piera De Tassis, in edicola da domani, esatto, il suo passaggio al cinema e tutti i retroscena del film nelle sale italiane dal prossimo aprile. Quindi Rihanna debutta anche al cinema. E beh, in effetti, insomma, sono tanti cantanti che dopo un po' di tempo si buttano sul cinema, come sono anche gli attori che dopo un po' si buttano nelle sale discografiche e incominciano a tirar fuori canzoni. Antonio, tu che farai? Antonio ha detto che scriverà un libro. No? Un libro per favole? No, niente, ma neanche quello. Va bene, andiamo avanti con la classifica allora, che questa ti riesce bene. E adesso una canzone d'amore, perché siamo alla numero 13, dove troviamo Giorgia con Inevitabile. L'amore poi cos'è? Dammi una definizione. Combinazione chimica o è fisica trazione? Mi sai dire tu cos'è? Se ti innamorerai sarà un incrocio di emozioni inevitabile. Non ci sono spiegazioni, non è chiaro neanche a me. Si dice amore quando si accende, che più rovente non c'è, sbatterci contro è inevitabile, sta capitando proprio a me. Sorprende prima o poi. E questa era la numero 13, Giorgia con Inevitabile, bella canzone d'amore insieme ad Eros Ramazzotti. È arrivato un messaggino, come in tutte le cose ci sono anche i ritardatari, quindi dobbiamo salutare Sara, che è riuscita a mettersi in collegamento con noi soltanto adesso. Quindi Sara, grazie per stare con noi e ti auguriamo un buon ascolto. A Hollywood, serata per Vasco e Pivano. Los Angeles, serata in onore di Vasco e a Fernanda Pivano il 24 febbraio a Hollywood, nell'ambito del settimo Los Angeles Italia Film Fashion and Art Festival, alla vigilia degli Oscar, proiezione dei documentari apprezzati all'ultima mostra del cinema di Venezia. Questa storia qua di Alessandro Paris e Sibille Righetti sul rocker di Zocca, che domani compie 60 anni. Epivano Blues di Teresa Marchesi sull'autrice morta nel 2009, che ha fatto conoscere in Italia autori come Hemingway e Kerouac. Benissimo, andiamo avanti con la bella musica e passiamo alla posizione numero 12, dove troviamo l'esuberante Katy Perry con The One That Goes Away. Tattoos. Used to steal your parents' questa era la numero 12, Katy Perry con The One That Go Away. Benissimo, Madonna in anteprima su iTunes. Torna Madonna con il 12° album di studio, in cui è possibile ordinare in anteprima su una versione in esclusiva mondiale su iTunes, per un periodo limitato a 9,99 euro. Questa versione contiene brani esclusivi e il nuovo singolo Give Me All Your Lovin' che abbiamo ascoltato prima. Nel web store ci sono anche la sua raccolta di Greatest Celebration e il suo catalogo. Tutti gli album sono disponibili ad un prezzo speciale per un periodo limitato, quindi mi raccomando, potete acquistare su iTunes questo album fantastico di Madonna a 9,99 euro, e in più vi regaliamo anche una mountain bike. No, stavo scherzando, questa non è inclusa. Ci è arrivato un altro messaggio da parte di Sara, simpaticissima, che ha apprezzato i nostri saluti di prima, quindi rifacciamo ancora i saluti a Sara, e visto che è stata così carina gli dedichiamo anche la prossima canzone, caro Antonio. Quindi adesso siamo con la numero 11, dove troviamo il mitico Antonello Venditti con Unica. Unica, Antonello Venditti, la posizione numero 11 della nostra classifica, qua in diretta su CRM Happy Radio con Speedy Top. Sanremo, firmato il contratto con Celentano. Firmato il contratto tra la RAI e Adriano Celentano per Sanremo. Il compenso, 350.000 euro in caso di partecipazione ad un'unica serata e 700.000 euro per due serate, o 750.000 euro per tre o più performance. Dai Antonio! Antonio mi sta tirando fuori 10 euro dal portafogli. E lo so, sono cachet enormi, pazzeschi, però fammi finire di leggere la notizia, dai. Comunque tutto questo, il compenso andrà in beneficenza, confermati i punti cardine dell'accordo, piena libertà, può entrare e uscire quando vuole, insomma può fare decisamente ciò che gli pare, caro Celentano, ma la cosa importante è che tutto andrà in beneficenza. Bene, io adesso devo dare la linea alla regia per qualche istante, ma torno da voi tra pochissimo. Ciao. Thoughts in every note. Oh, oh.

E questa era la numero 9, il mitico David Guetta con Titanium. Notiziona, Rolling Stone Italia festeggia numero 100. 100 dischi italiani tra i migliori di sempre, selezionati da una giuria di 100 personaggi della cultura italiana, da Ammaniti a Verdone. Sono questi gli ingredienti che Rolling Stone Italia ha mixato per celebrare il suo 100° numero, in edicola da, appunto, dal fine di questo mese. La speciale classifica vede al primo posto Bollicine di Vasco Rossi, seguito da La voce del padrone di Franco Battiato, Una donna per amico di Lucio Battisti, Creusa da De Ma di Fabrizio De André e Lorenzo 1994 di Jovanotti. Quindi grande festa per la rivista Rolling Stone che festeggia la numero 100. Bene, un saluto a Rachele che sta chattando con me in questo istante da Facebook. È bello interagire così con le persone che ci seguono da casa, perché insomma in tempo reale si possono fare due chiacchiere e si può incontrare tanta bella gente. Bene, andiamo avanti con la bella musica e passiamo alla numero 8. Non c'ho più fiato, Antonio, c'ho anche fame. Gianluca Grignani, Natura Umana. Ero solo con gli amici, è un tratto tu, sì tu, spiegami perché, da quando ho incontrato te, tutto è diverso, non volevo più restare a pensare alla mia vita. Che ho chiuso la ferita e adesso guardami. Tendo la mano che chiede aiuto, ma non è strano. Io che ero sicuro di me, dicevo, son più forte di te, invece amare mi fa paura. Ah, com'è bella, ah, com'è strana, sai, questa mia. Sulla pelle tu scivoli pian piano, e anche se cerco di scappare in vano, mi allontano dalle stelle e adesso guardami. E questa era la numero 8, Gianluca Grignani con Natura Umana. Ci informano che a Castiglione del Lago ci sono meno 7 gradi, ragazzi, freddissimo, e stanno bevendo la cioccolata calda. Beati voi, anch'io voglio una cioccolata calda, c'ho fame, Antonio, c'ho fame, dai, veloci che devo andare a buttare la pasta, che ho una fame stasera che non ti dico, guarda, incomincio a avere le allucinazioni. Cos'è che mi dicevi, che mi facevi i segnali? Ah, la pizza? Andiamo a mangiarci una pizza? Sai che non è una cattiva idea? Però dove andiamo a mangiare la pizza? È tutto chiuso? No, forse qualcosa aperto lo troviamo, dai. No, perché io veramente ho fame. Stasera sono venuto qua di corsa, non sono riuscito nemmeno a mangiare niente. Poi con sto freddo, figurati. Ah, mamma mia. Vabbè, adesso finiamo la classifica e poi ci concentriamo su dove andare a mangiare, dai. Magari anche una bella cioccolata calda ci sta dopo. Comunque, andiamo avanti con la bella musica. Numero 7, Tiziano Ferro, L'ultima notte al mondo.

E questa è la numero 6, Avicii con Level. Oh Antonio, sta canzone spacca, cioè, dice due parole, però è bellissima. Ha un intro che dura praticamente una vita. Tu arrivi in discoteca, incomincia l'intro di questa canzone, arriva all'ora che devi andare a casa e incomincia a dire le due parole che pronuncia in questo pezzo. Però è bella, a me piace, è un bel sound, è gradevole da ascoltare, insomma. Bene, dopo Avicii andiamo avanti con la bella musica, però ti prego Antonio, legami alla poltrona, perché col prossimo pezzo io penso che mi avvicinerò al balcone, perché è la numero 5 della nostra classifica. Troviamo lei, la fantastica voce Adele, Turning Tables. Close enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. I can't keep up with your turning. Questa era la numero 5, Adele, Turning Tables. Dopo Tiziano Ferro mi ero un attimino rallegrato con Avicii, poi è capitata Adele, comunque fantastico pezzo. Bene, concerto di Fossati a Genova. Non è stato un concerto come gli altri, quello che Ivano Fossati ha riservato a Genova. Per l'ultima volta Fossati e Genova si sono incontrati a Carlo Felice per un grazie reciproco durato oltre 3 ore. Un riconoscimento sfociato in 20 minuti di applausi ininterrotti. Data la circostanza, data l'occasione, vi voglio ringraziare per tutti questi anni d'affetto, ha detto il cantante, e il pubblico lo ha sommerso di un applauso a braccio che non finiva più. Quindi veramente complimenti a Ivano Fossati, che è un artista completo come lui, oggi ce ne sono veramente pochissimi. Bene, andiamo avanti con la bella musica. E siamo arrivati alla posizione numero 4 della nostra classifica, qua in diretta su CRM P Radio, con Francesca Michelin, Il Distratto. Un'ora, un giorno o poco più, per quanto ancora ci sarai tu a volermi male di un male che fa solo male. Ma non ho perso l'onestà e non posso dirti che passerà tenerti stretto quando in fondo sarebbe un inganno. E non vedi che sto piangendo e se ne accorge non sei tu. Tu sei troppo distratto. Un'ora, un giorno o poco più, dicevi sempre per sempre, sì però, guarda cosa è rimasto adesso, che niente è lo stesso. se non fa rumore l'anima, e quando sei qui davanti non si illumina, è perché non ne sento più il calore, non ne vedo il colore. E non vedi che sto piangendo, se ne accorge non sei tu, nel tuo sguardo distratto. Questa era la numero 4, Francesca Michelin con Distratto, eh? È entrata addirittura fino alla posizione numero 4 sta ragazza, fantastico. Ma lei non era una concorrente di X Factor? Stavo per dire una cazzata enorme, stavo per dire Grande Fratello, pensa. Invece no, la concorrente di X Factor, come no, chi, me la ricordo pure io, Francesca Michelin, chi se la può scordare, da X Factor, bellissimo programma che va in onda tuttora e fa ridere milioni e milioni di italiani, e ha sfornato artisti del calibro appunto di Francesca, per non dire chissà quanti altri ne verranno poi. E comunque speriamo che lo chiudano presto, eh? Dimmi Antonio? Sì? Ah, Giusy Ferreri tra l'altro, sì, infatti, bene. Oh là, finalmente siamo arrivati sul podio della nostra classifica, adesso rimangono soltanto le prime tre posizioni, quindi io direi di andare avanti alla stragrande. Passiamo immediatamente alla posizione di bronzo della nostra classifica, la numero 3, dove troviamo la bellissima Beyoncé con Love on Top. Questa era il numero 3 della nostra classifica, la posizione di bronzo, la bellissima Beyoncé con Love on Top. E questa è la musica che mi piace, Antonio. bella, con un sound così spumeggiante, allegra, una bella musica che a me veramente fa piacere ascoltarla. Bene, andiamo avanti con la nostra classifica. Adesso siamo arrivati alla posizione d'argento. Da Beyoncé passiamo a quelli che vanno a comprare gli accessori per la casa dal fruttivendolo, perché alla numero 2 troviamo i Modà con Tappeto di fragole. Resto fermo tra le onde mentre penso a te. Fuoco rosso, luce e rondine. Tra le foglie soffia un vento molto debole. Nel frattempo un fiore sta per nascere. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, teima. Sábado na balada, a galera começou a dançar. E comecei a falar. Nossa. E il bello della diretta è anche questo, improvvisazione, cose che succedono purtroppo accidentalmente, perché al nostro regista, pensate, gli è caduta la cuffia sul mouse e il mouse ha fatto partire la numero uno in classifica, che era per appunto Michel Teló con I sette pego, che ho scoperto oggi che significa a se ti prendo. Comunque ragazzi, mi dispiace, è successo questo piccolo incidente. La numero due era Modà con Tappeto di fragole e la numero uno di questa settimana appunto Michel Teló con ai sette pego. Io a questo punto devo soltanto salutarvi, un abbraccio a tutti, ci vediamo alla prossima diretta, ciao bella gente, buonanotte. La musica nuova è su CRM Happy Radio. Con la nuova solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti.